Tocca, tocca, flippero, flippero, ma... Ebbè, figlia, Luca flippero, blobbe, Cibrana, a chi sei? Chi è? Ha fatto il cancello aperto, blobbe, c'è nessuno? Accendi la 27, fischio! Aiuto, prendi la 27, fischietto! Non abbiamo cani! E lui! E beh, gufo, ci sei! Gufo triste! Gufo! Uffo! Ehi! Ha sparita, sì! No, era un ufficio, entra nella 27! Accendi la 27, Luca! Avanti, la porta è aperta! Aiuto che la pillola va giù! Marino, accendi la 27. Avanti, chi c'è sul PMR? Avanti, che vuole entrare? Bello bene.